piccino che vuole volare, vuole volare, vuole volare, vuole volare, vuole volare. Vuole volare, vuole volare, magistrale, capacità di prendere il futuro, di sapere più o meno come andrà a prendere a tutti nel culo quest'anno. Di cazzo ci darà il rancore di aver votato, se il Partito 5 Stelle, la Lega o qualcun altro. Realizzare un'utopia sotto le vesti di Beppe Grillo. Dico a tutti quanti che tirano sullo schermo di sollievo. E il partito del Movimento 5 Stelle sarà sempre più votato. Tutta la mia truppa vota questo. E ricordo qui detesto il partito di destra, perché non mi sono quello di sinistra, perché si scopa soltanto i mongoloni sordi. Perché questa cosa ti deve entrare in testa. Non la faccio con i soldi, questa è una roba ghesta.